Ogni tanto, nel corso di quelle serate, Madame de Guermantes veniva, certo per mortificazione, a fare una visita digestiva alla principessa, che la tratteneva tutto il tempo al suo fianco mentre conversava scherzosamente col duca. Ma quando, invece, la duchessa veniva a pranzo, la principessa si guardava bene dal farle trovare i suoi abitué e, alzandosi da tavola, chiudeva la porta per paura che qualche visitatore poco scelto potesse dispiacere all'esigente visitatrice. Quelle volte, se qualche fedele non preavvertito si presentava all'ingresso del palazzo, il portiere rispondeva «Sua Altezza Reale questa sera non riceve» e via. D'altronde, molti amici della principessa sapevano in anticipo che quel certo giorno non sarebbero stati invitati. Era una serie speciale, una serie inaccessibile a tanti che avrebbero voluto esservi compresi. Gli esclusi potevano, con quasi assoluta certezza, elencare gli eletti e si dicevano fra loro, in tono piccato, «Eh già!» Oriane de Guermantes non si sposta mai senza il suo stato maggiore al completo. La principessa di Parma se ne serviva, in effetti, per erigere intorno alla duchessa una sorta di muraglia destinata a proteggerla dalle persone di meno sicuro gradimento. Ma parecchi degli amici preferiti della duchessa, a parecchi membri del suo brillante stato maggiore, la principessa provava qualche disagio a usare delle cortesie, visto che loro ne usavano così poche a lei. Naturalmente, la principessa di Parma non aveva difficoltà ad ammettere che, nell'ambiente di Madame de Guermantes, ci si divertisse più che nel suo. Era costretta a constatare che, ai giorni della duchessa, la gente faceva ressa, e che lei stessa vi incontrava spesso tre o quattro altezze che, a casa sua, si limitavano a lasciare i loro biglietti da visita. E aveva un bel tenere a mente le battute di Oriane, imitare i suoi vestiti, far servire durante il tè le stesse crostate alle fragole. Certe volte restava sola, tutto il giorno, con una dama d'onore e un consigliere di legazione straniero. Così, se c'era chi, come un tempo, ad esempio, Swann, non lasciava mai finire la sua giornata senza andare a passare 2 ore dalla duchessa, mentre faceva una visita ogni 2 anni alla principessa di Parma, questa non aveva poi molta voglia, nemmeno per divertire Oriane, di insistere con lo Swann della situazione per averlo a pranzo. In breve, invitare la duchessa era per la principessa di Parma un'occasione di perplessità, tanto la torturava il timore che a Oriane non andasse bene nulla. Ma, in compenso, e per la stessa ragione, quando la principessa di Parma andava a pranzo da Madame de Guermantes, sapeva già in anticipo che tutto sarebbe stato perfetto, delizioso. Aveva un solo scrupolo, quello di non saper capire, ricordare, piacere, di non sapere assimilare idee e persone. In questa prospettiva, la mia presenza eccitava la sua attenzione e la sua cupidigia, non diversamente da un nuovo modo di decorare la tavola con ghirlande di frutti, incerta com'era se fosse l'una o l'altra, la decorazione della tavola o la mia presenza, a costituire più particolarmente una di quelle attrattive che erano il segreto del successo dei ricevimenti di Oriane, e ben decisa nel dubbio ad aggiudicarsi per il suo prossimo pranzo sia l'una che l'altra. A giustificare pienamente, del resto, l'estasiata curiosità della principessa di Parma in casa della duchessa era quell'elemento comico, rischioso, eccitante, in cui la principessa si tuffava con un misto di timore, di emozione e di delizia, come al mare, in uno di quei tratti ondosi dei quali i bagnini segnalano la pericolosità semplicemente perché nessuno di loro sa nuotare, e da cui emergeva tonificata, felice, ringiovanita, il cosiddetto spirito dei Guermantes. Lo spirito dei Guermantes, entità non meno inesistente della quadratura del cerchio, secondo la duchessa, che riteneva d'esserne tra i Guermantes l'unica depositaria, era una specialità famosa, come le rillettes di Tours o i biscottini di Reims. In realtà, poiché una disposizione intellettuale non segue per propagarsi gli stessi canali percorsi dal colore dei capelli o della carnagione, alcuni intimi della duchessa, che non erano però suoi consanguinei, possedevano anch'essi questo spirito, il quale in compenso non era riuscito a insinuarsi in certi Guermantes eccessivamente refrattari ad ogni sorta di spirito. I detentori dello spirito dei Guermantes non imparentati con la duchessa avevano in genere la caratteristica di essere stati uomini brillanti, dotati per una carriera, fosse un'arte, la diplomazia, l'eloquenza parlamentare, l'esercito, cui avevano preferito la vita di consorteria. Forse sarebbe stato possibile spiegare questa preferenza con una certa mancanza di originalità o di iniziativa o di volontà o di salute o di fortuna, oppure con lo snobismo. Se per alcuni, ma bisogna ammettere che erano delle eccezioni, il salotto Guermantes aveva costituito la pietra d'inciampo della loro carriera, ciò era avvenuto loro malgrado. Così un medico, un pittore e un diplomatico di grande avvenire non erano riusciti a far carriera, pur essendo più brillantemente dotati di molti altri, perché la loro intimità con i Guermantes aveva fatto sì che i primi due passassero per mondani e il terzo per reazionario, il che aveva impedito a tutti e tre di essere riconosciuti dai colleghi. L'antica toga e il tocco rosso che ancora rivestono e ricoprono i consigli di facoltà non sono, o perlomeno non erano, sino a non molto tempo fa, che la sopravvivenza puramente esteriore di un passato dalla mentalità angusta, di un geloso settarismo. Sotto il loro tocco a ghiande d'oro, come i grandi sacerdoti sotto il berretto a cono degli ebrei, i professori erano ancora, negli anni che precedettero l'affare Dreyfus, chiusi in idee rigorosamente farisaiche. Du Boulbon, in fondo, era un artista, ma si era salvato perché non amava la mondanità. Cottard frequentava Verdurin, ma Madame Verdurin era una cliente e poi era protetto dalla sua volgarità, senza contare che in casa sua riceveva soltanto colleghi, in agapi su cui aleggiava un odore d'acido fenico. Ma nei corpi saldamente costituiti, dove peraltro il rigore dei pregiudizi non è che il prezzo per il riscatto della più pura integrità, delle idee morali più elevate, destinate a indebolirsi in ambienti più tolleranti, più liberi e ben presto più dissoluti, un professore, nella sua toga di raso scarlatto foderata di ermellino come quella di un doge, cioè d'un duca veneziano rinchiuso nel suo palazzo ducale, e non meno virtuoso, non meno attaccato a nobili principi, ma non meno implacabile, anche nei confronti di ogni elemento estraneo di quell'altro duca, eccellente ma terribile, che era il signor di Saint-Simon. L'estraneo qui era il medico mondano, che aveva altre maniere, altre relazioni. Pensando di far bene, lo sventurato di cui stiamo parlando, per non essere accusato dai suoi colleghi di disprezzarli, che strano concetto dell'uomo di mondo, se teneva a loro nascosta la duchessa di Guermantes, sperava di rabbonirli dando dei pranzi misti in cui l'elemento medico era immerso nell'elemento mondano. Non sapeva, così, di sottoscrivere la propria condanna, o meglio, lo veniva a sapere quando il Consiglio dei Dieci, numericamente un po' più elevato, doveva provvedere all'assegnazione di una cattedra vacante, ed era sempre il nome di un medico più normale, fosse anche più mediocre, a uscire dall'urna fatale, e il veto risuonava nell'antica facoltà altrettanto solenne, altrettanto ridicolo, altrettanto terribile quanto il giuro sul quale è morto Molière. Identica alla sorte del pittore, etichettato per sempre come mondano, mentre persone di mondo che si dilettavano d'arte erano riuscite a farsi etichettare come artisti. Identica quella del diplomatico, con troppe aderenze reazionarie. Ma questo era il caso più raro. La base del salotto Guermantes era formata da distinti signori che avevano rinunciato volontariamente, o almeno così credevano, al resto, a tutto ciò che era incompatibile con lo spirito dei Guermantes, con la cortesia dei Guermantes, con quell'indefinibile fascino così inviso a qualsiasi corpo che fosse appena un poco costituito. E chi sapeva che, fra gli abitué del salotto della duchessa, ce n'era uno che, tempo addietro, aveva vinto la medaglia d'oro al Salon, un altro che, segretario dell'associazione forense, aveva esordito in modo clamoroso alla Camera, un terzo che aveva lodevolmente servito la Francia come incaricato d'affari, avrebbe potuto considerare come dei falliti persone che non facevano più nulla da 20 anni. Ma questi, bene informati, erano poco numerosi e i diretti interessati sarebbero stati gli ultimi a parlarne, giacché, in virtù, appunto, dello spirito dei Guermantes, trovavano quei vecchi titoli destituiti di qualsiasi valore. Non li spingeva, forse, quello spirito a liquidare come scocciatore, pedante o, al contrario, commesso di negozio, questo o quel ministro eminente, uno un po' trombone, l'altro con un debole per i giochi di parole, di cui i giornali cantavano le lodi, ma al cui fianco Madame de Guermantes sbadigliava e dava segni di impazienza se l'imprudenza di una padrona di casa le aveva assegnato l'uno o l'altro come vicino di tavola? Poiché essere uno statista di prim'ordine non costituiva certo una raccomandazione agli occhi della duchessa, quelli fra i suoi amici che si erano ritirati dalla carriera diplomatica o militare o non si erano ripresentati alle elezioni per la Camera, stimavano, andando ogni giorno a far colazione e a chiacchierare con la loro grande amica, incontrandola in casa di altezze di cui, d'altronde, almeno a parole, avevano ben scarsa considerazione, di aver fatto la migliore delle scelte, sebbene la loro espressione malinconica, anche in mezzo all'allegria, contraddicesse un poco l'attendibilità di questo giudizio. Bisogna anche riconoscere che la delicatezza della vita sociale, la finezza della conversazione Guermantes, avevano una loro, sia pur tenue, realtà. Nessun titolo ufficiale poteva competere col fascino di questo quel favorito di Madame de Guermantes, che ministri più potenti non sarebbero mai riusciti ad attirare in casa loro. Se in quel salotto tante ambizioni intellettuali, tanti nobili sforzi erano stati sepolti per sempre, dalla loro polvere, almeno, era germogliata la più rara fioritura di mondanità. Certo, uomini di spirito come, per esempio, Swann, non solo si giudicavano superiori a uomini di valore, ma li disprezzavano. Il fatto è che la duchessa metteva al di sopra di ogni altra cosa non l'intelligenza, bensì, forma secondo lei superiore, più rara, più squisita, di intelligenza elevata sino a una varietà verbale di talento, lo spirito. E quando un tempo dai Verdurin Swann classificava Brichot come un pedante e il Stier come uno Zulu, nonostante tutta la scienza del primo e tutto il genio del secondo, era l'infiltrazione dello spirito Germain a farglieli catalogare così. Mai avrebbe osato presentarli alla duchessa, presagendo quale accoglienza avrebbero ricevuto gli sproloqui di Brichot e le spiritosaggini di Elstir, dal momento che lo spirito dei Germain radunava i discorsi pretenziosi e prolissi del genere serio e quelli del genere buffonesco sotto l'unica insegna della più intollerabile imbecillità.